cucinarmi il fegato, stanze di stoffa e plastica, mentre lacrima l'anima illumina la roccia. C'è chi s'abbraccia al vetro nel sonno di un sorriso d'orgoglio e di libertà, di se su musica. Sporca, sudata, ma pur sempre in vita finalmente. Mai come vuoi tu. In vita è grandine, arrabbiata, ipernutrita, devastata, ma pur sempre. Ora angeli da seguire. In vita fragile, vomitata, sporca, sudata, ma pur sempre.